Tarcisio! Non c'è nessuno, no! Graziano! Non sente su nessuno, più di un'ora segui, no! Tutti imbriachi, so! Purtroppo! Si avvicina! E allora ci sono fendiati dei posti, sto! Ma chi se è pezzaglia della carne, poi di frise, fa nadare! E allora, ma chi c'è sì? Allora, fate come ti sei venuto giù, sei più da lei, sei più impegnato. Capito, mi hai, bello bene. Ciao a te, buonasera, buonasera anche a Graziano. Sì, buonasera Gianmarì. Ciao Graziano. Oggi è in pensiero Graziano, Cos'è il tuo Graziano oggi? Sì, in pensiero, è pensando oggi. Ah, vero, grazie. E allora? Il tracco si sta venuta, il tracco si sta appusato, sono un'ora e più i nomi, con la radio che aveva acceso, sono entrato un cagnolino. Sì, senti con un telefono in mano, cazzo, non hai inteso gli serpeggiamenti. No, la verità che ho inteso di sfuggita, la voce tua, da voi. E non si comprendeva nulla e poi senti tutti spariti. Ehi, non dirà nessuno, se non ci credono lì. E allora, ed è i nomi pusato a cuscelli, e se sta accusato. Sì, sta a giudizio Seppi, sta a giudizio cazzo, che eri sempre con il telefono in mano, giungendo, cazzo, abbandonando chi si cosi. Ma lo credo che ci ha posato a trovare gente con un telefonino a Purtroppo sì. Chi tu dici? Mi pare gotto. Un cinghialetto va appoggiato una tradaura con il foglio di mirto va sotto. Da brossolito, brossa magna. Infatti ti dice appetito. Sì, il tracco con sta maglia, in cocca di sei tracco. E adesso lo mangia la baci. E allora, avari dica a pulirmi la baci, in frise. Me lo mangio domani. Ma cosa Graziano, con sciotto? Sta sempre, fregatene. In sacca. Graziano, cosa di buona in frise, un gosciotto. Ehi, mezza berra di boschito, bella brossolita, come te freddo, se usacco un contenitore, lo pongo in pozzetto, avanno una giugana, so cuteccio. Ma la carne è buona, cotta e magnata, no, da voi congelata, A chi capisce, ci pare magnate da uletta. Che no, questo è bello croccantello, sì, proprio... Io su ma non sono anche con Ciuccio perché c'è pochito, no? Ah boh, non ne so qui di chi su. Io ci gosciotto una volta che rubano in frise, che non ne rugavi non diventa più come te prima, Buono, buono, Oggi ci mangiato troppo a mezz'ora. Anche i dolcetti. Pasta, pasticcini, torta di qualità al cioccolato, torta alla crema bianca o a colori. Ah, te, sto. E si lamenta. Ciao, lo gioco. E la Cristina misurata di là? No, ti stanno così per i cacchini. Faccio la pasta bene, sarà faccio il sonno. A che se c'è l'acqua e se va bene di singoli con il telefonino e paesi se cacchè. A che hai mangiato troppo e vai un po' di sonnolenza vai. E allora, per carità, pizza la cremenni gioco. E mi è caduto sì. No, oh, ce l'hai mato. Marino mi ha mandato una scimmia, vanni. Occhio mio, io non ne si affura. Spero, Gio Marino. Ma l'avevo già visto. Ma Gio Maria, sceso c'è. Un attimo che è entrata gente, un attimino. Ehi, riprendi tu. Ma dite che sono mensa chissà. Tu non rusabbi? No, faccio una balza piena a spalla. Visto l'hai, te l'ho detto io, facci piano. Ma io la buio di stato, mi vuoi crude e non mangio nulla. Tu devi andare piano, no? A buffarti, non hai compreso. A chi si sta buffia da bui. Devi fare un pezzo che esce, un pezzo che d'altro e piano piano. No, a chi ha giovaniato un distanzo del solito. E da voi busato, ma niente, piano piano, mi pareva nelle zincuva. Faccio finito di bagnare. Eccoci qua. Capito mi hai? Chi era arrivato quasi le zincuva da finito di bagnare? Sono del successo, grazie. Avevamo cominciato a mangiare più tardi, mi pareva di 2 mesi quasi. Dunque tra una cosa e l'altra, ma niente, erano quasi le 5 quando ho finito di mangiare. Ma sarotti a cena pure. No, mi faccio il tempo. Si faccio una bassa a palloncino. Tu sai questa cosa che ci hai mangiato, non so, è un grido. Cattolino volevi farmi, cazzo, boh. Cazzo un bel roba la mangiare, caro Ranietto, e tu, boh. Vuol dire che ha mangiato troppo, ma non se ne intende di... Ragazzi, grazie a facci piano. E allora, boh, roba di... mamma, fuori tutti giù, i dolci. Una pasta mi ho mangiato, la torta, un'altra torta, un pezzo di una, un pezzo di l'altra, i dolcetti, e via. E me ne muoverai la glicemia per darsa, paparai. Oioi. Vai, grazie a misura dei affini che tu dirai, va. Va, me la misura, adesso che figlio. I tre che battiste. Dai, dai, intendiamo che tu è. E minimo per avrà 240. Non credo, eh. Oh. Ma quasi 200 virava la senz'astro, vediamo un po'. Quando si ne abusa uno, e allo credo che fa di così si effetto. Zatta, zatta, e purtroppo è così. Non lo so, no. Per carità, bisogna appeggiare i visi di mangiare, va da bene. Così che il palmiero dirà e saluti. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Cos'è che hai combinato oggi, sto? Che si che ci ho fatto arrivare? Nuda. Sei a casa, o sei uscito? Sì, a fare alcune commissioni, e boh. E boh, così, da bello che ho rientrato. A fare... a contare una cosa che mi ha distrutto l'Ugani. Però poi se c'è Bacchisi, attento se c'è Bacchisi, oh. Oh, come sempre. Boh. Vabbè, grazie. Hai già vai contenti. Ma magari non riesce a leggere i numeri. Ma che non lo vedi? Io si buoni piccetti. E per tutti questa cosa ha mangiato e si risolta anche di rossi. E per isso che non riesce a leggerlo. Sono 13. Vabbè. E c'è un timore 3 o 4 cinci in più. E andrà di bene, così grazie. Aspetta che me ne può la sua scelta. posto, l'ho messo a posto. Grazie, a te beggia un gabbo. Ehi, a tua pasta. Ehi, lo sabbia io. Ciao Mari, canta così. Pensano trovare il gabbo bene, buro. Infatti, allora, grazie. E Ciarotti, una tazza di tè, bello caldo, si è a posto, vai. Ehi, ma si andando con la regallina, la macchinetta. Ma se gli va a posto, ma controllami la glicemia, le glicemie. Infatti me ne mangiano salvedo. Hai detto? Infatti, me ne mangiano salvedo. Ma siamo dottore mio, buro così. Se lo manda anche tu paese io. Ehi, ma io mi dico che è influenzato, sa com'è? No, a me non mi sta più così. Beh, caduci siete. Grazie, grazie, che a me non mi succede più così. Massimo 140, ma non di più. E invece a me mi succede spesso, No, io... Ormai lo so subito cosa... E allora ci sto calmo. Pezzo di uno, un pezzaretto dell'altro. Quando arrivo in soltanto, Anche io mangio così, però poi mi frega che mi mangio qualche dolce e mi butti così. Ma va, Graziano, abituato ad avere un sacchetto sempre pieno a zeppa. Capito? Si mangia più poco un sacchetto in mezzo di oggi e allora gli altri la chitto di più, capito? To? E gli altri compreso, sì. Gli altri la chitto, gli altri. E noi così, due pezzi, tre pezzi al massimo di dozzi, ma no un sacchetto. Perché c'era una torta al cioccolato, una torta alla vaniglia, le paste, altri dolcetti, poi mi ha mangiato un burro ciuppa ciuppa. Anche bubu. Purtroppo. Grazie, quando li vedi devi dire fuggi dai chivi. Se me ne so io in cucina la buchi. A chi ci no si la mangia è pieno di dossi. Ma sono fuggiti no che in cucina. Ma cosa cattadini devi fare di insulina? 14 cc. Aspetta. Bebe. Ebbene, 213, al minimo 14. La salute mi la via di più, me ne ha fatto 15 cc. E non mi sanno quando me ne sono compensato per la via a 175, a Rosai. Sì, a San Vero, Mattesimi. Io il massimo che ce l'ho in questi giorni ce l'ho 123, 116. Adesso ce l'ho sempre così, ce l'ho. Aspetta, però oggi, prima di pranzo, ce l'avevo 113. Ieri, prima di pranzo, sempre prima di mangiare, mi davia 92. Però il solino non me ne ha già fatto. Oggi mi davia 113 e me ne ho fatto 6 cc, da. Infatti, quando ce l'hai bassa, anzi quella era quasi giusta, era, perché 110 quella giusta, e quando è così ne devi fare poco e nulla. Infatti ieri era 92 e non me ne ha già fatto, il giorno prima di abbatti ieri ce l'aveva 97 e non me ne ha già fatto rumatessi. Anche se dopo dovevo mangiare, però non me l'ho fatto. E quando mangi che ti sale? Secondo cosa mangi ti sale parecchio, ti sale? Ma ieri già ho mangiato poco, avanti ieri l'ho preso. Oggi a chi fino a me figliola come ienna, non ha mangiato, mi ho mangiato in quei dolci, se no, fa fare le compagnia. L'ho assaggiato, diciamo, però un pezzo di ghidato Luigi Facciupa, Limbacci, e un pezzo di tutto, addosso, già lo credo, Azza, ma lo sa via. Poi la ciuppa ciuppa si è mangiato tutto. Niente, oh. Andiamo, vai, andiamo. Ma dici, mi figlierò poi, ma lo ciuppa ciuppa, andiamo ciuppa ciuppa. E l'ombra si sta, si mangiamo ciuppa ciuppa. Ah, se ne ero buono il ciuppo, se la giura fatto, a cosa mi dai? Vai, vai. Dai, dai, grazie. Aga Ballazzari, uia, cosa fai a Natale allora? No, a Natale il barattolo io me lo mangio, Ma, io sono il cinto. Cade con prete, buono. Cazzo. Uia. Vai, vai. Mangia che dai fame, mangia grazie a Fucidini. Tanto chi dà ragione. Allora che aveva messo un pandoro e me l'ha mangiato quasi tutto io. A colazione. Romanzano. Romanzano mangi solo una fetta e mi scottacci. Come quasi mi saldasse, più di me saldasse di chi si di Blasca bianchi. Per il fondo, solo una fetta è romanzano. È difficile mangiare questa cosa. No, stamattina mi hanno mangiato tre fette con Nutella e marmellata. Ah, e te? Boh, io la marmellata me la metto da grande sopra per mangiarla. Io faccio col cucchiaino, gli metto un po' di marmellata, gliela spargo. Nella fetta biscottata la bimbi in fondo così e me lo mangio, volute. E perché mi devo fare l'insulina? Mi devo pigliare tutti i bacilli e tre fette erano stamattina. Se no in genere me ne mangio solo due. Io invece no. Io non mangiano mi voce un tè con quattro fette di biscottati. Ma io perché mi devo prendere anche tutto quel cavolo di pastiglie la mattina, a parte l'insulina, e pastiglia protezione dello stomaco, e pastiglia della pressione, e pastiglia barabassa, e pastiglia baruguri, due baruguri di bili, poi un'altra barabassa, poi sarebbe meglio di lui ma sì. Faccio un carrettetto, un bel voce, un manzano, mi baglio un buco, di canto vinaggio, ma un bel voce, mi piace un po' appigliata, me la giunsa, boh, allora non mi piglio, cioè me la viene appigliata. Sì, no, io non faccio così, quattro fette biscottate, un po' di tè, un bicchiere di tè e su cappuccio. E anche io, ma fate biscottate, in genere me ne mangio sempre due. La mattina me ne ha giubato tre, ha detto, beh, allora me ne mangio un'altra, va. E me ne ha fatto tre, e buh. Poi finita la una non so finita. Purtroppo è così. Vero, Giomari? Così fatti. Ma grazie non vi credi. Grazie, di bello quanto sei alzato. Ma me sono pesato Alghero dalla nutrologa, vestito 75, sempre 73, 74, 72, sempre lì sono con il peso. Cantero besidoio, grazie. 72, allora è Mundandi, 72. Cacca. Lascia di sopravvivere a controllo, 100, 100, cateralo, 174. Cosa 174? Allora, ragazzi. Cosa pensavo? 164. 74, no, hai pensato. 74, è un fundelli. 74. Era 22, l'abbiamo ben roba. Come me pesi, là. Io vestito dalla nefrologa pesavo quasi 75. E infatti, in mondati peso 72, capito? E il peso mio è sempre così, è sempre quello lì. E poco tempo fa ero 69 e poi mi sono ripigliato, però 69 mi intendi a male. Io mi messo senti no così tanto, 72, 73, cattata che dà penso sempre di più, boh, a me pare che pensa sempre di più, mi ci messo che fa niente. No, già è giusto, perché se calcoli, qua in montagna penso 72, là è lo vissuto, solo il giubbotto mi ha levato. E peso 75, però considera, i pantaloni, i rimoti, il golfo, la felpa, il cappello di lana, e lo porta quello in busciacara, 3 kg di roba e avvia. Già sei giusto già. Boh, ma per la curiosità mi bisi, io non capisco, dai, te li presi tu. Mi faccio una cosa che tu ne bisi io, grazie. 67. 67. Ma io l'altra volta pesavo 68, 69, 70. Non mi intendia avermi. Mi sentivo pure alla tremurita la vita. No, ma così già mi va bene a me il peso che ho, va. E però considera che io oggi pane non ho mangiato, anche se mi ho mangiato gli occhi, il secondo, pane non ne ho mangiato, Buonasera. Ciao Marino. Buonasera Graziano, ciao anche Tore, ciao anche Gio Maria, avanti Graziano. Ehi, un po' di froschio, sento, ma già ti sento oggi, là. Ehi, insieme a Tore, Gio Maria è andato a pesarsi. Riprendi tu. Ciao Marino, ben sentito, babbo di tanto. Sono appena affalato, poi siamo un casotto, siamo mezzo preoccupati, Mario, se ne andendi, tu, Mario, se ne andendi. Oggi era voce doia che intendo proprio. E Bacchisio, non hai inteso? Ma mi capivo, io sono parascendo, ho appena attaccato l'estero, guarda. E ho deciso di ascolto e basta. Tutto qua. Io peso 69, grazie. Cosa? Peso 69. 79? Tu sei più robusto. No, io vestito, l'altro giorno che sono andato a visita, 75 pesavo, però ero vestito. I mondanti no, che mi peso, peso 72. E adesso c'è una visita il 18, alla prologa, per i polmoni, sulla strada secca, al sanatorio. Adesso mi pesa nuovamente, vediamo quanto peso, poi mi fai i controlli ogni 4-5 mesi, c'ho la visita di controllo, ho capito? E mi tocca domani, ma il 18, martedì mi tocca. Vediamo quanto pesiamo, avanti to. Andemmo. Graziano che ha aumentato di peso. Sì, vabbè, questi giorni poi già scende piano piano, Graziano. La cosa è che non c'è roba sul tavolo, assaggio un pezzo di questo, un cioccolatino, un dolcetto, una cosa all'altra, tutto fa peso, top. Dopo la gennaio a dieta, vero grazie. E allora, no, io devo andare martedì 18 dal dal diabetologo e mercoledì dalla secca bianca dal plumologo devo andare. Domani no, martedì e mercoledì. No, io sono 18, cioè martedì. E lei, la signora, la torre, c'è rientro, io sono rientro di pomeriggio. Siccome ci abbiamo preso un po' di confidenza, però per le giornate da voi, lei cosa fa? Mi mette insieme di giorno con lei, San Rietro, capito? Adesso mi tocca il 18 alle 4 su al sanatorio, prima era al Faglione Rosso, adesso l'hanno trasferita su, c'è un suo lavoratorio privato, tranquilla e serena, e si sta bene, c'è il parcheggio e non rompo le scatole nessuno. No, io devo andare martedì al Palazzo Rosa e mercoledì a Secca Bianca di mattina dal plumologo. E la mia è la dottoressa Solinas, tutto qua, mi ancora lei, sono già 10 anni con lei, già va bene, dai. Stavo dicendo, Otto, Mario si ne andendo, dimmi. Sì, non ho capito, no. E Mario sta andando via. Mario sta andando via? Sì, si ne andendo di sopra, sta partendo, morendo in poche parole. Oh, tuo fratello? E allora, da un momento all'altro, il mare sta, un bel mare, è stato davanti, era tutto a posto, sarà un mese fa, fatto tutto l'accertamento, è tutto a posto, rifare i ricettamenti perché doveva fare un intervento, ma un'altra cosa, e c'aveva tutte le analisi, tutti alternati, fanno nuovamente tutti i controlli, adesso è peggio di prima, erano venuti da lì là, dal fegato al polmone, figurati, dunque... Vi raccontare i giorni, in poche parole, dai. Aspetta, bubù. Speriamo che sia da bui Natale. Si passi il Natale bene, bui. Purtroppo. È morto giù anche lui, è morto giù perché adesso sono quasi 6 anni, combattendo, 6 anni. Anzi, confronto ai dottori, ha detto anche troppo ha durato, com'era. Ma aspettiamo. Ma si vede, uia. Da una cosa all'altra, avanti, grazie. Uia, e non lo sai che usci, per carità. Speriamo che gli possa tirare manco un Natale, per carità. Ui, ogni anno viene uno, e vabbè, tanto tu mandato tutti ai vivi, dunque. A chi so a taggio, ma riprendi tu. Purtroppo è così, la vita siamo solo di passaggio, no, è meglio andarci in dico normali che malati. Lo so, è capitato, adesso mio nipote se trovava l'autorezza oggi, vedeva cosa ne diceva, se no... Ha detto che se lo portava a casa, capito? Tanto su non le stanno facendo nulla, Non le stanno facendo nulla, le stanno facendo la flebo e l'antidolifero e basta. Passi così, meglio se lo porti a casa, almeno questi pochi giorni se la gode con la famiglia, diciamo, dai, avanti. Io sono da parecchio che non lo vedo adesso. Cosa sarà? Una ventina di giorni che non lo vedo più. Oh, ma stava bene, è stato ricoverato quando è? Martedì è stato ricoverato. Martedì che si è sentito male, l'hanno ricoverato. In poche parole, dal fegato ha attaccato anche il polmone. Era sempre stanco. Andava a fare l'accertamento e ha pigliato anche il polmone. Dunque, non c'è nulla da fare, che ha proprio detto in poche parole. Zero. Il fegato, il pezzo che hanno tagliato, è ricresciuto, ma è ricresciuto già malato, già pieno di ghisa male, dunque non dove va. Ha detto, non so, doveva parlare con l'autorezza, se trova bene se lo portava a casa, tanto su non ci fa nulla. Purtroppo, poverino, si dispiace. Andave, da. Ciao Mari! Eccomi qua, stavo aspettando. 74 peso tu, 74. E andiamo allora, già sei leggero come me. Olio cuore, Giovanni, buonasera. Ciao Mari, buonasera. E beh, finito hai questo lavoro qua di quel piazzale? O ancora ce n'è? Qualche fesseria è rimasta, Giovanni, qualche fesseria, devo attaccare le cose le cellule del cancello che lo lasciano asciugare bene il muro, le fotocellule, devo attaccare, poi devo stuccare, ma stuccare non mi interessa, posso stuccare anche più là, e mi devo finire il barbecue dietro, e boh, e non faccio più nulla, basta, è giovinito. Ehi, così si dice sempre, invece per sempre che cosa va, vabbè, finché c'è un po' di salute bisogna fare, Marì. E tanti dicono, certe volte noi diciamo sì, non faccio più niente, invece, beh sempre, guarda, non manca mai, da fare non manca mai, però, già sei lì stesso, per cui un pezzo oggi, un pezzo domani, riesci a, a farlo come e quando non c'è tempo, capito? Per cui chi dà ragione. Va bene, Marì, va bene. E così, va bene, adesso il muro è fatto. Fatto intonacato, a grosso, a fine, fine. Diciamo che il muro è finito, là. Messo i tappi sopra. Poi sono stoccato i tappi, quelli sono stoccati, le fughe, là. Ma con calma, quello lì. Il cemento, solo cemento poi fatto. Cemento e acqua, capito? Preso e stoccato e basta. Ho fatto l'impianto a rete, ho messo tutti i pozzetti, il tubo, collegato. Ho cambiato tutti gli interruttori su da me, da mia figlia, e qua giù ho preso un relay, anzi prima era interruttore normale, se c'era relay era un casotto, 2000 fili, invece ho un relay con 4,60€, ho preso un relay, ho collegato tutto e pochi fili e roba facile. Ok, per il momento va bene così, diciamo che ho finito il barbecue e basta, mi attaccare con due cosette, adesso si fa per la giornata questi giorni, lo finisco. E ciccia. Bene, avanti, grazie. Vabbè, io certo, bacio dragon finnaccio, a chi ha di sé più freddo. Prego finnaccio. Lei già batte, mi lo pesa un chivo, già batti in faccio. Capito? Fatto il pigiama pesa mezzo chilo e più, fatti lo conto. No, questi giorni è aumentato di quasi di un chilo e qualche cosa, non c'è per 72. Boh, abbacciaggi dovrà aumentare. Cattavarvi sono invece, avanti a tempo aumenta, manca 74 e più. A gennaio ha detto, Giovanni, a gennaio a dieta, adesso bisogna mangiare e ingrassare, poi a gennaio a dieta, avanti Tore! Tore si deve essere assentato! Avanti, grazie! Io invece 78, 80, 82, sempre, insomma, io ingrasso e scendo, salgo e scendo, è a periodi, grazie, è a periodi, e pensavo io cammino molto a piedi, io sono alla costruzione, tutto quello che mangio mi va a ingrassare, non vengo e va, biculeo mi va a ingrassare, boh, avanti Giovanni. A me ma dici, lei non deve mangiare né pane, né pasta, e del riso, così mi ha detto. Ha proprio il riso che non ha domanda, pazzo, che ha due cosine di riso, io, specialmente quel frutto di mare, il riso lo mangia solo quel frutto di mare, oppure qualche volta me lo faccio in bianco con la mozzarella, mi taglio la mozzarella a pezzi, dai, con tutto il riso, mi sommongo in un coso, in un microonde, si scioglie tutto quanto e mi mangio così. No, più queste bebbiate lo devo mangiare, boh! Buona lei, due! Si cazzà! Vai, non mangia, sono in grasso! E allora mi si rimane un ciao, Graziano, buonasera, caso Maria! Mi sembra di essere anche Marino, lui a me non mi sentivo lui! Benissimo, riprendi ancora, Graziano! Negativo, non lo sento, dove chiudo che è arrivata gente, ok, saluto nuovamente, ciao Giovanni, ciao Bacchino, ciao Tore, ciao Graziano, io chiudo per il momento, ok, magari ci vediamo più tardi, là. Avanti Giovanni. Ciao Marì, sentiamo, va, buon proseguimento, ci sentiamo alle prossime, saluto in casa. Ma chi? Salutalo. Ho salutato Marino. Ciao Marino, buonasera. Tanto non mi ascolta, Gian Marino. Ok, vi do un po' se rientro al dottore. Torre. Gian Marino, sono qua, stavo leggendo un attimo un messaggio che manca l'acqua domani. Mi Marino sta chiudendo. Comunque buonasera, Bacchi, ben entrato. Vai a salutare almeno a cosa, Marino. Ciao Marino, stammi bene, alle prossime, ok. Ciao Bacchisio. Ciao Tore, buonasera, ben ascoltato. Io sono Luca Rosario stasera. Ma non qua, a Monte Oro manca la luce, a Tronco Reale. Non qua, l'acqua manca qua. Monte Rosello, Latte Dolce, e queste parti qua. È la parte di su Lune e Sole. Tabella ficcano abbieremo la faccia, sino da voi lo sa. Sicuro che non vendeva domani. E nel messaggio ce l'ho. E allora bisogna fare la provincia là. Avanti Bacchi! Ehi, arrivo per la leva Gian Marino. Arrivo, allo momento, e veniamo bene. Ma non è colpa di Abanoa, è l'elettricità che manca da Monte Oro alla parte di Tronco Reale, e quindi non può erogare acqua perché le pompe non funzionano, è compreso. Una scusa di tutto, carità. Va bene, io sto, e la risolviamo, scappa. Mi raccomando, grazie, non mangiare niente stanotte, beviti un bicchiere di tè e sei tranquillo, mi raccomando, vabbè, dai, saluto le case, ci sentiamo, alle prossime, vai Bacchi. Ciao Graziano, buona serata, vedi il biberon, faccio un tè e metti il biberon, e ciao, saluto la signora, domani Graziano, stammi bene, avanti tu. Torere, mi sono impegnato col telefonino guardando le situazioni per domani. No, non me sono a parte adesso. Era soltanto che mi era arrivato il messaggio di mia figlia e mi ha mandato dove manca l'acqua. Quindi, per l'elettricità, andava dalle 9, non so, alla notte, andava. Ciao, grazie, stammi bene, a domani. Manca l'acqua oppure la corrente manca? No, la corrente manca dalle 9 fino alle 18, da Monte Oro a Tronco Reale. Allora ce l'abbiamo noi la corrente domani? Sì, no, qua non manca, solo a Monte Oro e Tronco Reale, che stanno facendo una linea nuova e quindi sospendono la corrente. Ah, ecco, ho capito. Bene, va. Ok. Va bene, avanti, signor Bacchi. Come mai in ritardo oggi? Ehi, vabbè, tutti io riso di Dio, di Giaghiglia. Per cui va bene così, Bacchi. Tanto ho messo già l'otto macchinetti, già, tra poco si la devo mangiare, certo, e tira a campare, così è to. Infatti, ancora 10, 15 minuti e poi arrivederci, ti dico. Va bene, il tuo macchino. Senti che la partita del Cagliari, se sei qualcosa del Cagliari, se ha perso o ha vinto. No, lo so, Bacchi, no, già lo sai che per il calcio io sono legato, non è che mi fa tanto, magari le partite internazionali già le guardo, ma solo quando le danno un gratis, però a pagamento no, ma se no non le guardo io, Non sono uno di quelli appassionati al calcio, capito? Però quando le danno me le guardo, capito? Sì, ma è così, visto che formativo non è che sia un mangio per il calcio, così per noi è una squadra sarda, la squadra della nostra terra, delle cose. Questi napoletani vengono messi a capo, non è vero che sono i napoletani che hanno portato a capo l'Ugaglia. chiamate dopo. Dimmi, se aspetti fra, non so, fra un po' caredo, lo danno qua, che lo sto guardando a Rai 3, telegiornale sardo, quindi lo dovranno dare adesso. E alla fine lo danno. Se mi sposto da qua non lo sento più nulla. Come mai? C'è un coso, quando sono spostato, il fratellino, ho proprio con il capo che scendeva per più mese, sono impegnato nella cosa, nella 27. E dunque, per avere questo, devo salire su un terrazzo, cambiare il pavilotto e via. E io ho detto, è freddo, vento, no, non va bene. Ma già ti sento lo stesso io con il portatile. Portatile sono, lo dico io, lo dico io. E bisogna che mia matrice mette un altro tavolo. Sì, vabbè. Già andava a vedere un matrice così anche con il portatile, già stai uscendo. E io dentenno, Gian Maria dentenni, a Voglia. Infatti, ehi a Voglia. Siamo vicini, noi ci sentiamo, capito? Bene o male, a che cosa intendi? Oh, e beh, io ci sento bene, macchine, benissimo. E c'è stato sentire anche a me. E per cui, ma siamo vicini, ecco perché ci sentiamo bene, capito? Tore, mi sta spaccando lo svizzero, Tore. Perché oggi è forte, paghi su, eh. Andave. Comunque sta perdendo il Cagliari, Bacchi. Non potevo immaginare. Con la squadra del Napoletano che c'è più forte di Cagliari. E poi ho vinto di prepotenza, ho vinto regolarmente. Se vince il Napoli, Cagliari che gli aiutano da farlo. Ma sta ancora giocando, mi sta. Ma dico, se vince il Napoli, il Cagliari, si azzuffano, i cagliaritani si ricordano la capiote del pubblico. Napoli è forte, Gru Cagliari è forte, e vabbè, ma per me se pareggiani andava. È dura con Napoli, secondo me classifica, non è neanche così in fondo in fondo, è la seconda, a 11 punti dalla Juventus. E vabbè, cazzo. Se pareggia chi? Non ha pareggiato pure a Roma, ma non può pareggiare con Cagliari. Torino pure ha pareggiato. Allora, quindi, come vedi? Con Torino ha pareggiato. Cosa? Torino Juve? No, non è Torino. Torino Juve era. All'ultimo momento non era addosso il rigore, se no era pareggiato. Purtroppo è così che vanno i tempi. Parole rotondo, lo si vada a fare curvi. Dai, io chiudo macchina, ci sentiamo domani se Dio vuole e se coincide, per cui ci salutiamo. Ciao Bacchi, buon proseguimento di serata, auto di casa, idem al Tore, buon proseguimento, a domani Tore, riprendi il tuo, chiudo, vai. Grazie, la piccola chiacchierata, anche se breve fa sempre piacere, dai. Riprendi il tuo e chiudo. Ciao a tutti e due. Ok, ciao Gian Maria, ci sentiamo. Ti prendi Bacchi. Ciao Gian Maria, ho cambiato tutto al 100%. Saluto la signora, buonasera. A domani ci sono sentite. Avanti, sto. Subito andiamo a chiedere a mangiare. Aspetta che ci so a far rende, ci so. A coso me, la coso, la tenolce con la sua quadra, se la fa rendi, che andiamo dove andiamo, la zacchina a pescio, l'ulbi a pescio. Allora, i sardi sono tutti tutti, tu ti pigli a fare i cosa vuoi fare, andiamo dove andiamo, a me. Inizia la Dinamo, inizia tra poco. Poi la vediamo che torna cosa fatto. Tutti i cappelli che ti viene. A me pare che sia vincendo in Bari, perché è iniziata poco fa. Mi sa che sta vincendo. Sì, sta Napoli sta vincendo. No, sto dicendo della Dinamo che sta vincendo, è iniziata poco fa, è iniziata. No, arrivato là, sono colpendo qua, ha fatto do, perché sono arrivato, io ora devo andare a prendere il zio. Ciao dottore, salutissimi, sotto la signora, a domani se coincide, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo fatto, a domani tu, stammi bene, ciao. Ok, Bacchi, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao.